GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Seggi aperti fino alle 23, domani lunedì 3 aprile dalle 7 alle 15 per le elezioni regionali e per le comunali in 24 municipi, oltre 1 milione gli aventi diritto al voto in Friuli Venezia Giulia. Anche un anarchico triestino tra i condannati dalla Corte d'Appello di Bolzano, con lui 62 persone giudicate colpevoli per i disordini al valico del Brennero nel 2016. 5.000 bambini e 2.000 famiglie coinvolte a Pordenone in un progetto per contrastare la povertà educativa. A Gorizia riapre il giardino Viatori, un gioiello della botanica, un percorso che si può fare anche con la realtà virtuale. Calcio, l'Udinese sfida il Bologna al Dall'Ara, per i bianconeri scontro diretto per restare almeno all'ottavo posto in classifica, ma senza Becao, Perez e Wallace e senza Mister Sottil, squalificato. Serie C, Pordenone scende in campo a Busto Arsizio contro la Pro Patria, sfida casalinga per la Triestina impegnata contro il Piacenza in una gara da spareggio. Basket a 2, Cividale batte Urania Milano, questo pomeriggio le sfide di Pallacanestro Trieste contro la corazzata Virtus Bologna e di Udine contro Piacenza. A Tolmezzo la prima tappa stagionale del campionato italiano di trial, tra gli atleti in gara il campione iridato Matteo Grattarola. Una buona domenica da Maria Spezia e da Elisabetta Zaccolo in studio per questa nostra prima edizione del giornale radio. Prima di entrare nel vivo delle notizie, subito uno sguardo al tempo. Il cielo è coperto sulla regione. Queste le temperature registrate alle 7. A Trieste 11 gradi e 5 decimi, a Udine 8 gradi, a Gorizia 8 gradi e 5 decimi, a Pordenone 7. A Forni di Sopra 2 gradi e 5 decimi, a Tolmezzo 2. A Biancavallo e Tarvisio 5 decimi di grado, a Sappada meno 1 grado, sul Monte Zoncolan 1 grado, sul Monte Lussari meno 5 decimi di grado, a Grado 11 gradi e 5 decimi, a Lignano 8 gradi. Le previsioni dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale per oggi, giornata con cielo variabile, saranno possibili piogge sparse in genere deboli, oltre a rovesci o temporali, specie in pianura e sulla fascia prealpina. Sui monti possibile qualche nevicata, in genere oltre i 1400 metri di quota circa, forse a quote un po' più basse in serata. Su costa e zone orientali soffierà a tratti bora moderata, specie sul Carso, più sostenute in serata e soprattutto nella notte verso lunedì. Dunque, gli elettori del Friuli Venezia Giulia sono chiamati alle urne oggi e domani per la presidenza della regione, per il rinnovo del consiglio regionale di 24 amministrazioni comunali. In Friuli Venezia Giulia si sono da poco aperti i 1360 seggi distribuiti nei 5 collegi in cui è divisa la regione. Si vota per rinnovare il consiglio regionale, eleggere il presidente del Friuli Venezia Giulia e i sindaci di 24 comuni. Tra questi anche Udine e Sacile, che avendo più di 15.000 abitanti potrebbero andare al ballottaggio il 16 e il 17 aprile. Le urne si chiuderanno alle 23 per riaprire alle 7 di domani, quando si potrà votare fino alle 15. Sono chiamati al voto 1.109.395 residenti in Friuli Venezia Giulia e gli iscritti all'anagrafe degli italiani all'estero. Sarà eletto presidente della regione chi ottiene il maggior numero di voti validi. Alle liste collegate al candidato presidente spetta il 60% dei posti in consiglio se l'eletto ha ottenuto più del 45% dei voti, almeno il 55% dei seggi se ha ottenuto una cifra uguale o inferiore al 45% dei voti. Lo spoglio per le regionali prenderà il via subito dopo la chiusura dei seggi. Per votare, l'elettore dovrà avere con sé un documento d'identità valido e la tessera elettorale. Chi non ce l'ha o l'ha smarrita può richiederla all'ufficio elettorale del comune di residenza anche oggi o domani. Alessandra Zigaina, TGR Friuli Venezia Giulia. La RAI seguirà l'andamento dello spoglio e man mano l'arrivo dei risultati. Primo appuntamento domani alle 15, subito dopo la chiusura delle urne. Due trasmissioni speciali, telegiornali e giornali radio dedicati, la copertura in diretta su web e social. Lunedì 3 aprile, una giornata sulle elezioni, sui canali informativi della TGR. Dalle 14.55, 2 ore di diretta nazionale su Rai 3, con i primi exit poll per le regionali, le proiezioni e i commenti con ospiti e collegamenti diretti. Alle 19.35 un'edizione del TG con i primi dati dei 24 comuni al voto, a cominciare da Udine. E alle 22 uno speciale a diffusione regionale sulla terza rete bis, canale 810 del digitale terrestre, con altri collegamenti, i dati delle regionali e i numeri dei comuni. Tutte dedicate alle elezioni, anche le nostre edizioni del GR a partire dalle 15 fino al mattino dopo e l'edizione del 4 aprile di Buongiorno Regione. Le elezioni in diretta dal 3 di aprile dalla TGR. Si è concluso a Bolzano il processo d'appello a 63 anarchici che erano stati condannati in primo grado per vari reati commessi al Brennero nel 2016. Pene complessive ridotte, ma condanne confermate anche per un anarchico di 39 anni nato a Trieste. C'è anche un anarchico triestino tra i condannati dalla Corte d'Appello di Bolzano. Il Tribunale Alto Atesino ha infatti condannato Luca Dolce, classe 1984, nato a Trieste ma da tempo gravitante nella zona di Rovereto. Assieme a lui altri 62 anarchici sono stati giudicati colpevoli per i reati commessi al valico del Brennero il 7 maggio 2016. In occasione di una manifestazione di protesta contro il cosiddetto muro antimigranti che era stato annunciato dal governo austriaco ma che non venne poi realizzato, gli anarchici provenienti da varie regioni italiane avevano dato vita ai disordini rendendosi responsabili di resistenza a pubblico ufficiale, radunata sediziosa, danneggiamento e interruzione di pubblico servizio, mentre il giudice aveva poi escluso già in primo grado l'ipotesi di devastazione e saccheggio. Dolce, detto Secco, nel 2019 era invece stato fermato a Torino e incarcerato a Tolmezzo dopo una sentenza per la produzione di documenti falsi per conto di un terrorista spagnolo, responsabile della devastazione della sede di un partito politico nel Trevigiano. Per l'anarchico triestino uscito dal carcere nel 2021, ora una nuova condanna. 3 anni e 8 mesi e risarcimento per i danni subiti da un poliziotto nel corso degli scontri. L'uomo, nel frattempo, si è reso irreperibile. Trieste, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. Atto conclusivo a Pordenone del progetto contro la povertà educativa e a favore della crescita dei bambini in difficoltà. Coinvolte. Sostegno pedagogico e psicoeducativo per l'ingresso alla scuola primaria, ma anche atelier teatrali e musicali, in una rete di mutuo aiuto. Sono stati oltre 5.000 i bambini e 2.000 le famiglie coinvolti nel progetto Educare in Company per contrastare la povertà educativa. Maria Antonietta Bianchi-Pitter, presidente FISM di Pordenone. Con questo progetto abbiamo cercato di realizzare varie azioni per incontrare i bambini e le famiglie e aiutarli attraverso l'ascolto. Sono state tutte iniziative che hanno coinvolto questi bambini, iniziative partite dalle scuole e però sono state iniziative che si sono svolte anche sul territorio. È stato possibile fare un progetto di rete privato-pubblico per vedere di trovare delle azioni per contrastare questa povertà educativa. Pordenone, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. La primavera riapre il giardino Viatori di Gorizia, un gioiello botanico pieno di colori e di profumi che si sta ingrandendo in vista di Nova Gorizia, Gorizia capitale europea della cultura. È una festa della primavera, la riapertura stagionale del giardino Viatori di Gorizia. I primi visitatori, accompagnati dal sole e dal cinguettio degli uccelli, hanno passeggiato tra le centinaia di specie arboree presenti nel parco con vista sulla città, creato negli anni 70 da Luciano Viatori e ora di proprietà della Fondazione Carigò. L'area si articola su 3 livelli. Nella parte più in alto un vialetto lastricato conduce alla Casa Viatori e alla Valle delle Azalee. Da qui si scende verso il laghetto delle Ninfee e il Roseto in un tripudio di fiori e colori. Diverse le esperienze multimediali che permettono di conoscere il parco attraverso QR code e realtà virtuale. Proseguono intanto anche i lavori per ampliare le fioriture presenti e i percorsi fruibili in vista dell'anno della Capitale Europea della Cultura. Il giardino sarà visitabile fino al 25 giugno, i venerdì, i sabati e le domeniche e gli altri giorni festivi. Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia. Passiamo allo sport, iniziando dal calcio. Dopo la pausa per le partite della nazionale, è ripartito il campionato di Serie A. A 12:30 l'Udinese sarà in campo allo stadio Dall'Ara per giocare contro il Bologna. In panchina non ci sarà mister Sottil, squalificato, che deve fare i conti anche con le numerose assenze dei suoi calciatori tra squalifiche e infortuni. Ma l'obiettivo, dice, è fare il risultato. Sentiamolo. Mi aspetto una partita contro due squadre in salute che giocano a calcio e uno scontro diretto, perché possiamo dirlo assolutamente che è uno scontro diretto. Le squalifiche fanno parte del gioco, è chiaro che come ho detto ai ragazzi prima, io preferisco sempre avere tutta la rosa a disposizione per poter scegliere dall'inizio il miglior 11 possibile senza essere condizionato o forzato nel fare determinate scelte, però per noi non devono essere assolutamente un alibi, una scusa, anzi zero di queste alibi e scuse, perché in rosa ci sono dei giocatori di assoluta affidabilità. Calcio Serie C, partita fuori casa per il Pordenone che affronterà la Pro Patria a Busto Arsizio, fischio d'inizio alle 14.30. Ancora in Serie C alle 14.30 allo Stadio Rocco, la Triestina sfiderà Piacenza. Con una vittoria i giuliani potrebbero tagliare un primo traguardo verso la salvezza. Basket a 2, Cividale inizia la seconda fase con una netta vittoria sull'Urania Milano, 89-62 il finale di una gara senza storia a favore dei padroni di casa che si impongono agevolmente sui Lombardi, portando a suo favore l'inerzia della gara nel secondo quarto e conducendola senza soffrire fino al termine. Migliori marcatori per i friulani: Pepper, 23 punti e 8 rimbalzi, e Redivo, 21 punti e 5 assist. Positive per i ducali anche le prestazioni di Battistini e Muhaha. Per il basket di Serie A1, partita impegnativa per la Pallacanestro Trieste che all'Allianz Dome incontrerà alle 18 la Virtus Segafredo Bologna. La squadra giuliana è alla ricerca di una vittoria che le permetterebbe di avvicinare ulteriormente la salvezza. Ci sarà Spencer, recuperato dopo un infortunio. Basket Serie A2, al Palacarnera questo pomeriggio arriva Piacenza. Per l'Old Wild West, imperativo ottenere un piazzamento favorevole nei quarti playoff, inizio alle 18. Pallanuoto Serie A, a Bologna la squadra triestina si riprende alla grande dopo la sconfitta casalinga con Palermo e sconfigge la De Hecker. La De Hacker 6-9 il risultato, vittoria che consolida la quinta piazza facendo puntare la Pallanuoto Trieste alla qualificazione in Eurocup. Pallamano Serie A2, missione compiuta per la squadra di Trieste che batte Cassano Magnago 22-15 il risultato, blindando così il secondo posto. Volley Serie A2 femminile, con la sconfitta contro Busto Arsizio, l'Itas Ceccarelli dice addio ai playoff, sconfitta netta per 3-0, così come netta è stata la superiorità delle avversarie. Per la A2 di pallavolo maschile, la Tinet Prata ospita Lago Negro nell'ultimo turno della stagione regolare. La squadra pordenonese è già qualificata per i play-off e si trova solo i 2 punti dal terzo posto, per cui, con un successo pieno, potrebbe migliorare la posizione in classifica. Inizio alle 18. Proporrà salti di precisione millimetrica la prima tappa stagionale del campionato italiano di trial, oggi in programma Tolmezzo, che prevede la partecipazione di oltre 100 piloti. Saranno 12 le zone di gara da affrontare per 2 volte e la manifestazione ospiterà anche il campionato italiano di mini trial. Inizio competizioni alle 9, mentre le premiazioni sono in programma alle 16. Tra gli atleti in gara il campione ridato lecchese Matteo Grattarola, che nel 2021 a Tolmezzo ha conquistato il terzo posto nel Gran Premio d'Italia. Lo abbiamo intervistato. Da me Tolmezzo ha sempre portato fortuna, anche perché qui a Tolmezzo ho fatto nel 2021 il mio primo podio mondiale nella massima categoria. Ieri abbiamo guardato il percorso è ottimo, credo, mi piace molto, quindi spero di fare un'ottima gara e cercare di partire col piede giusto. Quindi la prima vittoria nel campionato italiano sarebbe un grandissimo inizio di stagione per me, anche perché ho cambiato team dall'anno scorso a quest'anno, quindi sono molto motivato e cercherò di fare il massimo per vincere giusto la prima tappa del campionato italiano. C'è qualche cosa del percorso che non si aspettava, che la impensierisce, oppure tutto bene? L'unica cosa è un po' il tempo, perché non danno proprio una giornata con sole pieno, però vabbè, 2 gocce d'acqua sicuramente possono impensierire me, ma anche gli altri piloti, perché il percorso diventa molto più scivoloso e quindi bisognerà fare molta più attenzione e sarà anche più impegnativo. Con le celebrazioni odierne per la Domenica delle Palme si apre la Settimana Santa, i cui cristiani celebrano la passione, la morte e la resurrezione di Cristo. A Trieste l'arcivescovo Monsignor Giampaolo Crepaldi benedirà le palme alla chiesa di Santa Apollinare e guiderà poi la processione fino alla cattedrale di San Giusto, dove alle 10.30 celebrerà la Santa Messa. Alle 18 l'arcivescovo presiederà in cattedrale il canto dei Vespri. A Udine l'arcivescovo Monsignor Mazzocato presiderà il rito solenne alle 10.30 in cattedrale. A Gorizia, in piazza Sant'Antonio, alle 9.45, l'arcivescovo Carlo Roberto Maria Redaelli presiderà il rito della benedizione delle palme, seguita dalla processione verso la chiesa di Sant'Ignazio, dove avrà luogo la celebrazione eucaristica. A Pordenone, il vescovo Monsignor Pellegrini si recherà alle 11.15 alla chiesa del Cristo per la benedizione dell'ulivo, con processione fino alla concattedrale di San Marco. Alle 11.30 il presule, proprio in concattedrale, celebrerà la Santa Messa delle Palme. Ricorre oggi la giornata mondiale di consapevolezza sull'autismo. Per l'occasione a Pordenone il comune sarà illuminato di blu dall'imbrunire fino a domani, in segno di solidarietà alle famiglie che vivono questa condizione. Tra le iniziative in calendario, la marcia in blu per l'autismo, che oggi prevede l'ultimo miglio con partenza alle 10 dal comando dei Vigili del Fuoco e arrivo alle 11.30 al municipio. Elezioni in prima pagina sul Piccolo di Trieste, che apre con la fotonotizia dei pinguini di cartone che spuntano davanti all'acquario. Lo chiamano il Banksy triestino e sarebbe lui l'autore di queste sagome comparse a pochi metri dalla mostra dedicata allo stesso Banksy. Si è trattato di un pesce d'aprile, ha spiegato il misterioso autore, in attesa della statua del celebre pinguino Marco, che a breve verrà collocata davanti all'acquario. La carne sintetica accende il dibattito, col diretti contrari alla scienza è aperta. Inopportuno chiuderci una strada. Rischiamo di importare invece che produrre, dice Michele Morgante, ordinario di genetica all'Università di Udine. E poi la beffa per il mondo del caffè. Sarà la cucina italiana a venir candidata a patrimonio dell'UNESCO. Apertura del Messaggero Veneto di Udine, una scheda con i seggi aperti per le elezioni, fotonotizia per l'incidente mortale di Porcia di cui vi abbiamo dato conto ieri. Capocronaca interno, le elezioni comunali cittadine, da Dorgnano l'acqua color ruggine che scorre dai rubinetti a fronte dell'intenzione dei residenti di non pagare le bollette. Il Piccolo di Gorizia in prima pagina, la fotonotizia su Piazza della Repubblica, Monfalcone, Fontana e Testata Sud saranno completate a maggio. La pavimentazione di tutte le parti di Piazza Unità verranno terminate a giugno. Nella piazza di principale di Monfalcone sarà l'acqua la protagonista, proprio con la nuova fontana che verrà illuminata di notte. Per la cronaca, condannati a 8 anni due goriziani che trafficavano droga proveniente dalla rotta balcanica, mentre a Grado si segnalano una quarantina di furti delle centraline dei motori fuori bordo. Il Messaggero di Pordenone ha la prima pagina pressoché identica a quella dell'edizione di Udine, capocronaca interna, una scheda sui seggi cittadini per le elezioni regionali nelle scuole primarie. Domani e martedì le 6 palestre pordenonesi ospiteranno gli alunni con attività ludico-ricreative. Spazio poi alla scadenza del 31 maggio per richiedere sgravi delle rette di nidi, servizi educativi domiciliari e centri per bambini per il prossimo anno scolastico. Infine un reportage sul degrado della caserma Martelli. Il Gazzettino di Udine apre sulle elezioni e in fotonotizia si occupa del progetto per nuovi servizi alla ciclovia Alpe Adria. Da Lignano l'assemblea degli ambientalisti sul progetto di acciaieria Porto Nogaro, considerato dannoso dai relatori a causa dell'impatto ambientale nell'area lagunare. Spazio poi alle perplessità del sindacato autonomo medici SNAMI al progetto di telecamere di sicurezza a tutela delle guardie mediche, che a loro avviso devono essere sempre chiuse. L'edizione di Pordenone del Gazzettino apre sul mortale di Porcia. Dall'interno i lavori di restauro al campanile di San Marco a seguito del distacco di materiale avvenuto un anno fa. Da San Vito il ricorso al Consiglio di Stato del Comitato ABC contro la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale sul piano di ampliamento della Cronospan, azienda produttrice di pannelli di legno. Per la regione è prevista a Gorizia la manifestazione podistica Vivi Città, che in Italia coinvolge migliaia di persone in nome dei diritti, da quello per la pace alla sostenibilità ambientale, dalla salute all'inclusione sociale. L'evento, inteso nello spirito di Go 2025, capitale europea della cultura, prevede partenza e arrivo nella piazza della Transalpina, il ritrovo alle 8 e poco fa, la partenza alle 9.30. A Botenico di Moimacco riapre Villa dei Claricini Don Pacher, che renderà accessibile l'edificio seicentesco, il giardino all'inglese e all'italiana, ricco di piante rare e secolari, oggi e poi ancora domenica, 16 aprile. Al Teatro Nuovo Giovanni da Udine alle 11 per lezione di storia, conferenza di Luigi Mascilli Migliorini sulla Reggia di Versailles. Giornata di riapertura per le grotte di Pradis, che quest'anno propongono un calendario di visita di 106 giornate fino al prossimo 5 novembre, consultabile sul sito dedicato. L'attrazione naturalistica sarà accessibile dalle 10, mentre alle 11 riaprirà anche il Museo della Grotta. Semyon Bychkov, tra i massimi direttori d'orchestra viventi, dirigerà l'Orchestra Filarmonica Ceca, fondata dal compositore Gustav Mahler, in un concerto a lui dedicato, con l'esecuzione della Sesta Sinfonia in La Minore Tragica a Udine, al Teatro Nuovo alle 20. Ed è tutto per questa prima edizione del nostro giornale radio. In redazione ha collaborato Laura Sarasini, per la parte tecnica in regia Paolo Cassano e Giampaolo Zucchi. Da parte di Maria Spezia e di Elisabetta Zaccolo, ancora una buona domenica. Vi lascio a Vita nei Campi. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.